140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Baglioni, Milano. Un agriturismo piano B di 3 quarantenni. Arriva la camorra e succederà di tutto. Argentero, Fresi, Amendola in Noi e la Giulia di e con Edoardo Leo. Una mia amica mi ha fatto leggere questo libro, me ne sono innamorato, ma i diritti erano già stati presi e quindi io ho aspettato. Nel frattempo ho fatto un altro film, che è stato Buongiorno Papà, perché proprio volevo fare questa storia. Nel frattempo ho conosciuto l'autore, ho cominciato a parlare con lui e quindi c'è stato un percorso lungo quasi 4 anni per farlo diventare una sceneggiatura. Un percorso lungo 4 anni, però sembra un film, un'idea che è in sintonia con i tempi di oggi. Perché lo era anche 4 anni fa o per quelle strane alchimie del destino per cui chi fa questo mestiere riesce a capire prima i tempi? Guarda, forse per tutti e due i motivi, nel senso che questo è un esordio molto felice, quello di Fabio Bartolomei, questo Giulia 1300 e altri miracoli, è un libro divertente che vi consiglio dopo aver visto il film. Poi in realtà c'è una fotografia abbastanza lucida di quello che sta succedendo alla generazione dei quarantenni, nel senso che C'è un momento in cui il sogno di attuare il proprio piano B, di andare a aprire un agriturismo, che sia una qualsiasi altra cosa, è stato per quelli della mia generazione una roba incredibile. Io a 20 anni, come tutti, infatti, apriamo un ciringhito sulla spiaggia, il chiosco, le birrette in Messico, che bello. Poi dopo fai una vita, ti porta a fare altro. Io sono stato fortunato, ho realizzato il mio piano B, volevo fare l'attore e ci sono riuscito. Per gli altri magari hanno preso un'altra strada, hanno fatto quello che la vita gli ha proposto, no? Quando ti va bene, a volte non ti propone niente. In questo caso si tratta di riprendere in mano la propria vita. Il problema è che farlo in Italia è molto complicato, perché, ma forse anche negli altri paesi, ma in Italia di più, perché arriva o la camorra o la mafia, ti chiedono il pizzo, o la burocrazia, o i vigili, o un prepotente, e ti spiega che in Italia non si può fare. E fare un'impresa in Italia è un'impresa. E quindi io volevo raccontare questa storia qui, di 5 falliti nelle proprie esistenze singole, che però unendosi trovano la forza per ribellarsi e dire: sai che c'è? No, mo basta. Ci sono due aspetti che hai toccato in questa risposta, dei quali ti chiedo. Il primo è il fallimento. A un certo punto c'è una scena del film in cui c'è quasi l'elogio liberatorio del fallimento. È un punto importante del film, un punto di svolta. È fondamentale. Noi viviamo in un mondo in cui il tuo parametro in cui ti rapporti col mondo sono i like. Non è che si chiamano gli ok, si chiamano proprio i like, cioè devi piacere, più piaci, più c'è. E per piacere devi dare un'immagine di vincente. E questa cosa è un circolo che si autoalimenta. A volte nessuno ha mai messo su Facebook lo stato sono un fallito. Invece penso che a un certo punto avere il coraggio di guardare la propria vita a qualsiasi età, anche a 70 anni, e dire: sai che c'è, io sono un fallito. Sono un fallito perché la vita che mi hanno chiesto di fare non era esattamente quella che volevo fare. E questi 4 a un certo punto se lo dicono, hanno il coraggio di dire: io sono un fallito. Il mio personaggio dice: ho venduto orologi patacche, non c'ho un amico, sono una persona sola. La verità è che non c'ho amici, non mi vuole bene nessuno, sono un fallito. Punto. Da qui in poi ricomincio con la vita che veramente vorrei fare e lotto per questa vita. E non è la camorra che mi ferma, non è la mafia che mi ferma, non è un prepotente, non è nessuno che mi ferma. Mi sembra è un tema forte nel film. Raccontarlo in commedia è stato fantastico. Abbiamo fatto una cazzata, ma una cazzata enorme. Sergio ha fatto la cazzata, per cui adesso Sergio va di là, gli chiede scusa e risolviamo tutto. Certo, perché i camorristi sono persone comprensive, no? Andiamo di là, gli chiediamo scusa, gli offriamo un barattolino di marmellata fatta in casa e a posto così. Dobbiamo chiamare la polizia. Se lo denunciamo per estorsione, finiamo in un programma di protezione. Ma tanto ci trovano e ci ammazzano. Ecco perché il casale costava così poco. Altro che diatriba familiare, quelli sono scappati. Allora seguiamo l'esempio e scappiamo pure noi. Ma scappiamo di corsa subito, eh? Noi non ci vogliamo da qui. Piuttosto facciamo sparire lui. No, Sergio, io non faccio sparire proprio nessuno, ma per chi c'è? Lo facciamo sparire in cantina, lo chiudiamo lì, apriamo l'agriturismo, rientriamo dalle spese e scappiamo. Per chi non sapesse di cosa parla il film, per chi vedesse gli attori, la fotografia, il trailer, potrebbe pensare che è una commedia corale di rinascita, e invece c'è un altro aspetto importante, che è quello dell'incontro con la camorra. Anche questo, raccontarlo in commedia non è facile, non è scontato. No, perché poi in realtà io ovviamente non ho fatto Gomorra, non sono un autore, non sono un giornalista d'inchiesta. Il mio mestiere è fare il commediante, no? Il teatrante, quindi mi piace mettere alla berlina la camorra, raccontarla. Non è un caso che il camorrista, che è Carlo Bucci Rosso, non è proprio Schiavone, non è proprio, no, Totorrina, è anche lui uno sfigato della camorra, anche lui è un fallito dentro l'organizzazione criminale, è un fallito pure lui. Quindi l'incontro fra questi fallimenti genera una specie di, stranamente si riconoscono questi, perché anche lui forse il camorrista non lo voleva fare, gliel'hanno fatto fare, perché, e poi anche perché noi parliamo di camorra, ma io non nomino né Napoli né la Campania, è un sud ipotetico, ma potrebbe essere, ahimè, in questo momento anche un nord ipotetico, perché vedo imprenditori, no, anche lombardi, che tentano di aprire una pizzeria, non glielo fanno fare, e quindi quello è semplicemente, il film è semplicemente un simbolo alla lotta contro la prepotenza e i soprusi. E non sono uno studioso di camorra. Certo, mi ha fatto molto piacere che un giornalista come Lirio Abate, che è un giornalista d'inchiesta, che sta sotto scorta ed è venuto a vedere il film sotto scorta, abbia detto che questo film qua, ridendo tantissimo, è uno strumento molto efficace per combattere la mafia, cioè ridicolizzare la figura del camorrista. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Edoardo Leo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.